Sura 114. An-Nas. Gli uomini. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di. Mi rifugio nel Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini. Contro il male del sussurratore furtivo, che soffia il male nei cuori degli uomini, che venga dai demoni o dagli uomini.